E tu l'hai mai visto un arcobaleno nero? Bimbi che stanno in silenzio. Non voglio sia così. E tu hai dei sogni che non si realizzano, degli amori che non puoi presentare. Non voglio sia così. Sotto le lenzuola, tutto regolare.